pomeriggio, rieccoci alla Fuga del Gatto, le 18:31, siamo in... Sì, e oltretutto il tuo microfono, ahimè, è spento come sempre, ma ora va secondo me, prova. Sempre. Niente, una tragedia. Chissà cosa ci fanno gli altri bombati su questo microfono, ma non lo so. Ora sì, senti ora ma è potente. Parecchio. No, vabbè, ragazzi. Ci siamo. Cultura, okay. Cioè, io ora non è per fare la complottista, però è così. Ok. No. Cioè, devi stare con una mano praticamente sì. Appiccicata a questo cavo, no? Cioè, a che ti serve tanto questa mano? No, scusa? Niente. Come Rose d'altri, cioè. Il filo va bene, faccio una cosa drastica, scusate, ora sentirete fare delle cose brutte che in radio non si fanno, però Mari. Niente, tanto sono inutile a fare le cose brutte. Vabbè, è una tragedia sì. E mentre noi cambiamo il... Così no, sì, va bene, lo tengo così. Lo tengo così, ecco, perfetto, siamo comodissime. Avete presente il twister? Ecco, la posizione di mano sul giallo e ginocchio sul verde. Probabilmente è comoda. Io non lo so cosa ho fatto di male nella vita precedente. Probabilmente ero Eva Brown, perché me la stanno facendo scontare veramente tutte. E grazie a chi ha usato questo microfono prima di me. Grazie a Carini, ma veramente. Devi sapere grazie, che il microfono... Comodissimo. Vari utilizzi, cioè, no? Immagino, non li voglio veramente sportivi, sapere. Sportivi, immagino. Vi odio, grazie. Va bene, il mio invece va benissimo. Certo, certo, ovviamente. Allora, puntata di oggi, non perdiamo altro tempo. Puntata di odio. Così, sì. Anche perché dobbiamo mettere in fretta un pezzo, così ti cambio il cavo del microfono. Va bene, no, allora... E ti libero da questa posizione. No, allora, sì. La puntata di oggi è una puntata dedicata al ciclo Le Soap Opere. Esatto. Sì, era tanto che non le facevamo, Le Soap Opere. Le Soap Opere era tanto, sì. Questa, vabbè, ragazzi. Allora, io ho aspettato un anno, quindi non mi dite che ora sono andata di furia, che mi sono fatta prendere, perché è un anno che aspetto di mettere Mozart, diciamolo, dai. Cioè, no, è vero, bravo. È vero. Cioè, comunque, è il mio preferito, è un anno che aspetto e adesso ve la poppate. Tocca, ragazzi, perché questa tocca e questa, ragazzi, davvero non si prescinde. Cioè, qui davvero è come dire, boh, non so chi sono in Nirvana nella vita. Cioè, non si può vivere così. Ma forse, cioè, nel senso, era un po' un paragone così, un po' sul grande. Ecco, questa qui è veramente l'opera imprescindibile, l'opera che, come già vi ho annunciato, ve l'ho già spoilerata, adesso lo scoprirete nella puntata della Vacanze della Pimpa a Londra sulla mostra Passion, Politics and Power, no? La famosa mostra sulle opere, le prime delle opere liriche nell'Europa durante i secoli, ed è Le nozze di Figaro di Mozart. E qui, ragazzi, È lei, e veramente ci vorrebbero mille puntate per parlare di questa, però diciamo, facendo una sintesi, cercando di stringere, si può dire che innanzitutto è una delle opere liriche più famose del mondo, ecco, in generale, cioè proprio famosissima, forse anche di più di quella dell'opera italiana, no? Che tutti, Verdi, Puccini, è un cavolo, cioè questa è ancora più famosa. E di Mozart sicuramente, ma in generale dell'intero teatro musicale, ed è la prima di una delle, appunto, di una serie di collaborazioni tra Mozart e Da Ponte, il librettista, che poi ha portato anche alla creazione di Don Giovanni e di Così fan tutte. Si chiama la trilogia italiana di Mozart, solitamente viene definita, almeno io l'ho sempre sentita chiamare così. Bene, che dire, darei un po' di info. Fu Mozart proprio stesso, da non molto a Vienna, in realtà non era molto che era a Vienna, portò una copia della commedia di Beaumarchais, perché questa, il libretto è tratto da una commedia di Beaumarchais, a Da Ponte, appunto, che la tradusse in lingua italiana, che era la lingua ufficiale dell'opera lirica. Tuttora in parte lo è, anche se poi, insomma, nella storia della musica lirica, insomma, ci sono state varie fasi e varie contestazioni. Wagner per primo ha cercato di cambiare questo, ma anche Mozart poi, perché scrisse chiaramente delle opere in tedesco dopo la trilogia italiana. Però diciamo che l'opera, insomma, la lingua italiana era la lingua del teatro musicale, di sicuro lo era in quel momento. E che appunto appunto da ponte tradusse in lingua italiana quest'opera di Beaumarchais, questa novella, questo racconto, e d'accordo con Mozart rimosse un po' tutti quegli elementi di satira politica dalla storia. In realtà poi li rimosse fino a un certo punto, perché come abbiamo già detto nella puntata della mostra delle opere liriche a Londra, in realtà questa è una commedia sconvolgente e di rottura, è un'opera lirica di rottura rispetto alla tradizione dell'opera lirica precedente fino a quel momento, proprio per i temi. Quindi sì, è vero che Da Ponte fece un po' un pompieraggio, diciamo, sulla storia originale, ma in realtà quegli elementi, no, che caratterizzano poi questa commedia a livello ideologico, che la caratterizzano a livello di temi, sono poi rimasti, sono poi passati, ecco, sono comunque filtrati, la loro forza è comunque passata, perché è una commedia, è per la prima volta un'opera lirica che parla di classi sociali diverse, cioè di più classi sociali sullo stesso palcoscenico, e della critica che le classi sociali più alte ricevono fondamentalmente da quelle più basse. Non è niente di nuovo, in senso che questo nel teatro da Machiavelli in poi era già stato fatto, ma era la prima volta che succedeva in un'opera lirica, perché come voi dovreste ben sapere se ascoltate le nostre trasmissioni, l'opera lirica è sempre stata legata, no, a seconda dei periodi che ha attraversato, a temi molto alti, no? Gli eroi, le passioni, l'amore, le eroine tragiche, tutti però molto legati a una, appunto, a mondi fantastici, piuttosto che no, all'aristocrazia, piuttosto ai nobili, alla nobiltà, insomma, di varie epoche. Questa è la prima, credo, opera che tratta proprio, cioè che porta sul palco i servi, cioè che vede le cose dal punto di vista dei servi. Chiaramente già in Shakespeare e nelle opere teatrali c'era questo punto di vista, c'era stato, ma nell'opera lirica ancora non si era mai visto. Ed è fondamentalmente per questo che rimane forse anche così, no, un punto di svolta nella storia del teatro musicale. E che proprio per questo creò poi, no, oltre al gran successo che ebbe, straordinario, lo vedremo fin dall'inizio, ha sempre portato nuovi interessi, spunti, nuovi tipi di letture, proprio perché è un'opera che rimane veramente unica in questo suo trattare i temi, questi temi qua. Ecco, diciamo questo, chiaramente va contestualizzato, cioè è chiaro che non era un'opera politica sul momento, ma si era abbastanza vicini a quella che sarebbe stata poi la Rivoluzione Francese, quindi si era già in Europa in odore di ghigliottine, di moti, di rivolte, e in cui le classi sociali più basse stavano prendendo forza, la loro identità si stava imponendo anche nell'arte e nella letteratura, e non è un caso, insomma, che nasca in questo momento, è il 1786, siamo veramente alle soglie, insomma, della più grande rivoluzione europea, la prima grande rivoluzione europea. Quindi ecco, con questo clima, cioè questo clima illuminista, questo clima, ma Mozart da genio qual è, lo percepisce, lo sente, e trova in quest'opera un bellissimo spunto, un bellissimo punto di partenza per narrare questa storia corale, molto bella, molto movimentata, poi la vedremo via via, e che è rimasta poi, no, celeberrima e non a caso. Lo percepisce e direi neanche parecchio soddisfatto. Sì, cioè. sì, veramente, anche perché dovete pensare appunto alla corte degli Asburgo, insomma, è l'impero, insomma, siamo veramente al centro, al cuore del potere totale, insomma, no, della monarchia più importante d'Europa e della definizione di impero stesso, quindi insomma ha un effetto ancora più dirompente, se vogliamo, piuttosto che fatta in un altro paese magari in quel momento. Allora, l'opera fu scritta in gran segreto, la commedia era stata vietata dall'imperatore Giuseppe II perché appunto attizzava l'odio tra le varie classi sociali, secondo lui. E gli impiegò Mozart 6 settimane per completarla. Famoso appunto il finale. No, vabbè, perché comunque 6 settimane io non vorrei nemmeno. Non prenoto nemmeno la visita al dottore. E lui ha fatto le nozze di Figaro. E vabbè, quando uno è così, che gli vuoi dire, cioè, capisci? Finale del secondo atto, scritto tutto in una notte. Insomma, vabbè, no, celeberrima, leggende poi, insomma. Eppure fu solo dopo aver convinto l'imperatore della rimozione di queste scene che politicamente più controverse, che questi diede il permesso poi di rappresentare l'opera. Chissà che scene erano. Chissà che scene erano, chissà questi, non lo sapremo mai. Director cut, come mi piacerebbe. O forse vederli. Lo sanno e noi no. Lo sanno. Il coso segreto a Vienna ce l'hanno. Inoltre è famosa perché la scena finale del terzo atto comprendeva un balletto e una pantomima. Questo si vede nel film di Forman, Amadeus, cioè proprio questa scena è molto famosa. Si scontrava col divieto imperiale. Già. Che non si poteva ballare in scena. Pensate, cioè il divieto era non si poteva ballare in scena, nelle opere non potevano avere un balletto. Se hai capito perché. Però vabbè. Cioè, che poi se pensi anche a quello che succedeva invece nella storia della musica e dell'opera, in particolare in Francia, in quegli stessi anni era esattamente il contrario. Lo so. Forse non a caso che sì. L'impero invece. Sì, certo, perché l'Asburgo, nonostante che Maria Antonietta fosse la sorella di questo Giuseppe di cui parliamo, tra l'altro, però la Francia e la Germania in quel momento erano chiaramente, la Francia e l'impero Asburgo erano proprio, insomma, e il re Sole, sì, invece era proprio il re ballerino, quindi chiaro quello che era quello prima, sì, diciamo che c'era proprio questo divieto. La famosa scena che si vede nel film è che loro invitano l'imperatore a vedere la prova con il balletto senza musica sotto, cioè con questi che ballano come dei cretini senza musica sotto, e l'imperatore dice: ma perché non c'è la musica sotto, ma che band è? Non si può perché c'è la legge, l'ha detto lei. Ma no, ma leviamola. Quindi lui gli fece cambiare la legge, cioè fece togliere questa legge per poter fare il balletto musicato, come aveva senso che fosse. È una scena molto carina, molto buffa nel film. E quindi questo. Allora, Le nozze di Figaro fu completata il 29 aprile e fu messa in scena al Burgtheater di Vienna il 1 maggio del 1786. Allora, ottenne un successo strepitoso, al punto che l'imperatore, dopo la terza recita, dovette emanare un decreto per limitare le richieste di bis. Comunque sono precisi gli Asburgi. Quanti bis puoi fare? 1, 2, 3, 4. In modo che le repliche non durassero troppo. Ancora più grande fu il successo al Teatro Nazionale di Praga dal gennaio del 1789, dove, a detta di Mozart, qui non si parla che del Figaro, non si suona, non si strombetta, non si canta, non si fischia che il Figaro, non si va a sentire altra opera che il Figaro, eternamente Figaro. Ora, lui magari se modesto, cioè, ragazzo, era un po' così, un po' sopra le righe, però non aveva tutti i torti, nel senso che davvero quest'opera ebbe un successo travolgente e fin dall'inizio, perché davvero è al di là di tutti i piani, no, politici, di tutta la visione che si può avere, è esteticamente innovativa, ha questi momenti di a Londra parlavano proprio di il caos ordinato, no, proprio è illuminista questa derivazione, di questo senso di queste mille voci che però sono ordinate, si riescono a sentire, e anche è la prima volta nella storia dell'opera lirica che la musica esprime i sentimenti anche senza le parole. Questo è molto importante perché è una delle prime volte in cui la musica dell'opera lirica riesce a emanciparsi dalla parola scritta, che è importante, no? Il testo, la cantata, ma esprime già nella musica i turbamenti e le passioni dei personaggi. Anche se tu non senti le parole, capisci quali sono i personaggi che le stanno cantando e cosa provano. E questa è la grande genialità di Mozart, no? Perché fino a quel momento la musica nell'opera lirica, per quanto meravigliosa, no? Per quanto, no, voglio dire, Handel, tutti i maestri erano venuti prima di Mozart, però diciamo difficilmente si possono emancipare dal testo, fondamentalmente bisogna capire che cosa dice, no? Il protagonista o la protagonista. Qui no, perché talmente davvero, talmente è già espressiva la musica, talmente geniale e avanti e moderno era Mozart, che appunto fa questo lavoro, forse anche a sua insaputa probabilmente, in cui la passione, questa è un'opera di passioni fondamentalmente, parla di pulsioni terrene, quindi anche questo è molto nuovo, è molto umano, è molto illuminista, no? Sembra una contraddizione parlare di passioni, si parlano sempre riferite al romanticismo, ma in realtà non è vero, perché appunto la carnalità, l'umanità, la carne... È una scoperta profondamente illuminista, no, è un taglio profondamente appunto insomma, del momento che Mozart stava vivendo, no? Poi io in realtà avrei da dire anche che pure nelle mie amate opere barocche in realtà c'è tutto, cioè sì. Anzi, tutt'altro che come sono state spesse dipinte, in realtà invece qualcosa di più freddo, di ligio al sentire dell'epoca, per cui molto spesso si parlava di altro, però in realtà si sottintendeva poi alla fine la stessa carnalità che poi ritroviamo poi secoli dopo. No, ma chiaro, poi il barocco ha tutta la sua estetica, quindi è che è molto passionale, è molto presente, è chiaro, no? Qui è chiaro che si fa un altri tipi di si fa un percorso, è ovvio, nella musica è così, non è mai schematico, se non ci fosse stato Handel non ci sarebbe Mozart, in senso, è normale, è così. Per cui sì, sono d'accordo e pieno le arie sono tutte hits, come si direbbe oggi, sono diventate tutte arie famosissime e sono tutte delle hit e delle hit, sì, scusa, plurale. Vabbè, anch'io ci casco la domenica e direi che se ne può far già sentire una o si vuole io allora inizierei con l'overture in modo che ti cambio il microfono. Sì, no, perché ce la posso fare. Che incredibilmente adesso si regge da solo anche senza mani. Sì, però accadrà a un certo punto. Vorrei fare una citazione a te, perché la tua puntata su Schubert, siccome io sono una ragazza attenta anche quando non ci sono, studio anche se non ci sono, e le raccontavi appunto nella sua puntata su Schubert che Schubert scriveva al fratello, non mi ricordo chi, e diceva: oddio, ho sentito la cosa più bella del mondo, l'overture delle nozze di Figaro. È vero. E poi dice: ma no, aspetta, nella lettera dopo, e poi ho sentito l'overture del flauto magico. Sì, e sì. Quindi ragazzi, se lo diceva Schubert, ce lo possiamo accollare anche noi. Sì. E quindi infatti sì, iniziamo dall'overture in modo che proprio diamo un'idea dell'inizio, andiamo sì. Con ordine e poi proseguiremo come da tradizione della soap opera raccontandovi... O la soap opera. Esatto, raccontandovi piano piano la trama, inframmezzandola con le arie più salienti o almeno quelle che ci sono piaciute di più. Quindi per ora solo l'overture e poi ci risentiamo tra pochissimo. Thank you. Ecco, vediamo. E vabbè. Si sente? Sì, no, comunque, ora va, grazie. Ma non so per niente, cioè proprio un pelino goffa, cioè ho fatto una prova a microfono, bam, si è sentito probabilmente. No, comunque ragazzi, questo problema va risolto, ce l'avete da con Mondeggi. Me, parliamone, non lo so, venite sì. apposta, mandate dei wombat a rosicchiarmi il cavo, ci sono dei nemici dello wombat, tipo nella wombat caverna, non so, dei topi, delle talpi, io già mi faccio l'immaginario a schiacciare un allora, il nemico topi. Del wombat è il diavolo della Tasmania. Ah, è vero, allora lui è Taz. È quindi Taz, evidentemente è lui. L'incarnazione umana, io ne conosco un paio. Va bene. Allora, maledetti. Innanzitutto, angolo delle dediche, perché angolo ci siamo dimenticati, presi da questo problemino dei microfoni. Del microfono. Siamo dimenticati che abbiamo, siccome appunto la radio è una cosa personale nostra, cioè solo occasionalmente voi ci state ascoltando, sì, ma in realtà sono... No, no. È il salotto. Sì, è il nostro salotto. Siete in camera nostra. I bigodini e lo sapete, i biscottini. E quindi vi raccontiamo i fatti nostri e salutiamo i nostri amici. Salutiamo tutti i nostri amici. Tra cui uno appena arrivato. Uno nuovo, nuovissimo, un nuovo arrivo, arrivato ieri. Il mister Dante Rosso. E lo vorrei dargli il benvenuto e augurargli buona fortuna, perché gli servirà in questo mondo. Faccela almeno. Dai, Dante. E poi no, io invece volevo dedicare anche questa puntata alla bruschetta Nenia, l'idolo, una delle due conduttrici della brusca, perché ci ha confessato, cioè che sono cose che ognuno ha le sue fisime, certo, ovviamente. E lei ci ha confessato che va in giro a fare trekking, va in giro per i boschi ascoltando il podcast della fuga del gatto. E come se non bastasse già andare in giro per i boschi a fare trekking, insomma, se non fosse abbastanza dura. Sì, e tra l'altro per colpa mia penso che abbia rischiato di cascare di sotto da un dirupo, perché nella apice della romanticheria da bosco, io dicevo che Confaloniere è un nome anni 80. Sì, sempre comunque la puntata su Schubert è un puntatore. Mi sono presa delle libertà, ero da sola. Quando ti lascio un attimo mi parte. Però Confaloniere è un nome anni 80, cioè io me lo rivendico. È vero. Vabbè, ma ora lasciamo perdere. Ma questa è una polemica per un altro giorno, vivremo sempre un altro giorno per la polemica. Io vorrei dire che saluto la mia amica newyorkese, che in realtà è romana, però è di stanza a New York, Giulia, che appena mi avrà sentito dire hits mi avrà scomunicato. Però Giulia, ciao, ti saluto, lei è una sucker for Mozart, so ciao Giulia, dai. Va bene, facciamo veramente schifo, direi che basta. No, l'ultimo. No, ancora. Oggi c'è un altro, il povero Manuel, se mi sta ascoltando, ciao, ecco, grazie. Ah, se vabbè, ce la puoi pensavo fare. Di Pat, pensavo no, di sì. Ora, la prossima rubrica sarà quella delle telefonate da casa. No, quelle non sono giuste, solo perché in realtà non ci chiamerebbe nessuno, siamo varie finte telefonate autoregistrate. Solo perché non abbiamo il telefono, sennò ci chiamerebbero tutti. Sì, sì. Mm-hmm. Allora, la sintesi, arriviamo alla sintesi, torniamo alle cose serie. Sinossi. La sintesi... cioè la sinossi in sintesi della trama della nostra soap opera di oggi, ovvero Le nozze di Figaro di Mozart, se per caso vi eravate distratti. Allora, l'opera è in quattro atti, come vi dicevamo, ruota attorno alle trame del conte d'Almaviva, invaghito della cameriera della contessa Susanna, alla quale cerca di imporre lo ius prime noctis. Così, tanto perché non passa mai di moda. È così, no? Perché... Che fatto, perdi lo ius prime noctis. Che simpatiche abitudini. Sì. La vicenda si svolge in un intreccio serrato e folle, pazzo, pazzissimo, in cui donne e uomini si contrappongono nel corso di una giornata di passione travolgente, piena sia di eventi drammatici che comici, direi forse più comici che drammatici, e nella quale alla fine i servi si dimostrano più signori e intelligenti dei loro padroni. Non ci voleva molto. E qui si ritorna a quello che dicevamo prima. L'opera è per Mozart e prima di lui per Beaumarchais un pretesto per prendersi gioco delle classi sociali dell'epoca, che lì da a poco saranno travolte dai fatti della Rivoluzione Francese, e ve l'abbiamo già detto. L'intera vicenda può anche essere letta come una metafora delle diverse fasi dell'amore. Questa cosa qui sì, è la versione un po' più edulcorata, dai. Che Rubino e Barbarina rappresentano l'amore acerbo, Susanna e Figaro l'amore che sboccia, il conte e la contessa l'amore logorato e senza più alcuna passione, Marcellina e Don Bartolo l'amore maturo. Ma noi, secondo me, ci sputiamo sopra questa versione, no? Ma sì, a te piace? No, è una lettura, boh, cioè c'è mille letture, un'opera così tanti, tanti, con così tanti piani, e sì, boh, può essere un'interpretazione. Dai, ma no, tirata per i capelli. Però, boh, mi leva poco. Devo dire, i ruoli. Quindi... I ruoli. Il conte di Almaviva, baritono, la contessa di Almaviva, soprano, Susanna, soprano. Figaro, il fido del conte, basso. Cherubino, paggio del conte, soprano. Marcellina, Cherubino, appunto, attenzione, soprano, quindi è una donna che fa la però voce di Cherubino. Però se voi siete stati attenti alla puntata di Pimpa va a Londra, saprete bene che il Cherubino era in realtà un castrato. Certamente. Perché era la voce di un adolescente. Quindi... Quindi spesso, diciamo che... originale. Sì, io le versioni che ho visto, non all'opera, perché Leonce Figaro l'ho vista all'opera, però veramente ero piccola. Comunque, le versioni che ho sentito, spesso c'è un soprano donna, oppure raramente, ma ci sono anche delle voci bianche. Anche sì, anch'io. Io ho visto col soprano donna, cioè, anche quella che ho sentito, era, insomma, che c'ho, insomma... Tanto, una gran parte. Sì, Marcellina, la governante, soprano. Bartolo, medico di Siviglia, basso. Basilio, maestro di musica, tenore. Don Curzio, giudice, tenore. Barbarina, soprano, basso. Figlia di Antonio, giardiniere, vabbè, basso. Giardiniere del conte, zio di Susanna. Qui già mi sono persa. Coro di paesani, villanelle e vari ordini di persone. Arriviamo all'organico orchestrale. Allora, l'originale partitura di Mozart prevedeva l'utilizzo di due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti, due corni, due trombe, timpani e archi. Quindi, come dicevamo fuori dai microfoni prima, un organico abbastanza ristretto. Se pensate a quello che oggi sono gli organici dell'opera lirica, insomma, orchestre intere, ecco, è veramente ridotto. Era poca cosa, ma anche un po' all'epoca erano meno, erano grandi le orchestre, però diciamo comunque è ridotto anche per l'epoca. Sicuramente non quello a cui siamo abituati. No, vabbè. Ovviamente nei recitativi c'era comunque il basso continuo tipico di quei secoli, insomma non solo del Settecento, ma comunque sì, ed è in questo caso tenuto, diciamo, dal clavicembalo o dal fortepiano e dal violoncello, ma penso più spesso si trovi il clavicembalo, ecco. Sì, volevo dire una cosa, non me la ricordo più, me la ricorderò dopo. Ma mi viene sempre in mente appunto il film di Forman su Amadeus, perché c'è proprio una parte in cui si vede la creazione delle nozze di Figaro e di come, e che è molto bella, perché lui, per proporla all'imperatore, per proporla alla corte, comincia a raccontargli queste idee. Gli dice: ma vi immaginate una storia in cui il separo si apre e uno sta misurando un letto, cioè vi immaginate, no? E lui glielo dice come se fosse una cosa fighissima, cioè una cosa, e questi ovviamente la considerano una roba tremenda, perché insomma i temi erano proprio diversi per vabbè, questo è scemo, dice, ma che dice, e lui minima, appunto, comincia a fare la parte di Figaro, a dire 10, 20, e la prima è proprio il primo momento dell'opera, si apre proprio su questo, cioè immaginate, si apre il sipario e questo è in ginocchio, sta misurando un letto. No? È pazzesco, cioè, ora per noi magari no, però per l'epoca vedere anche per noi, perché comunque nella storia dell'opera penso sia probabilmente l'unico esempio. Ora, sì, io non ho assolutamente una cultura in fatto di operette, però nell'opera lirica non viene in mente, cioè, così, no? Vabbè, una scena così intima anche, sì, volendo, anche proprio terra, se vuoi, cioè questo sta misurando un letto che ci deve fare entrare nella stanza, il letto suo del matrimonio di quando si sposa, e vedrai, il letto ci deve entrare e deve misurare tot. È stupenda. E abbiamo scelto questa come primo ascolto, se non sbaglio. Abbiamo scelto, ma prima di arrivare a questo ascolto, vi introduciamo brevissimamente, proprio con una frasetta, l'inizio di questo atto. Il mattino del giorno delle nozze, Figaro e Susanna sono nella stanza che il conte aveva assegnato loro. Figaro misura la stanza, mentre Susanna si prova il cappello che ha preparato per le nozze, e quindi c'è subito quest'area che vi abbiamo appena adesso descritto. Thank you. 5, 10, 20, 30, 36, 43. Ora sì, io sono vivo. Destina il conte farà buona figura in questo luogo. In questa stanza? Certo, me la cede generosa il padrone. Io permette la dono. E la ragione? La ragione è lo qui. E perché non puoi far che passi un po' qui? Perché non voglio, se tu mi osservo o no. Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo. Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo. Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei meglio stare in altro loco. Bam, così. Così. Eh sì, perché poi c'era il recitativo, no, un po' se no, andiamo avanti. Comunque, questa era per farvi capire l'ambientazione, come si apre appunto quest'opera, quali sono i suoi temi. Ricordiamoci sempre che comunque c'è stato Molière, c'è stato Goldoni, insomma, ecco, il teatro dell'arte era andato avanti. Nel frattempo non è che l'ha inventato Mozart, i servi sulla scena, insomma, si viene da una tradizione già negli ultimi 50 anni, 60 anni di teatro dell'arte, le cose non sono cambiate molto, no? Grazie a Goldoni, lui lì metteva in scena opere di Molière, quindi insomma, ecco, sì, era una tradizione. No, perché da come l'ho detto sembrava che ora va bene, Mozart era un genio, però è chiaro che ogni cosa è figlia un'altra, insomma, il teatro era molto cambiato, sia quello di prosa, sia poi no, quello automaticamente poi anche il teatro musicale. Questo è il primo esempio di teatro musicale, ma che viene da appunto da opere come quelle di Goldoni, come quelle di Molière, dove la borghesia cominciava, no, le classi borghesi, le classi basse e poi quelle borghesi cominciavano a diventare protagoniste, perché è un mondo che stava cambiando fondamentalmente molto velocemente, per tutte le ragioni storiche che sappiamo e che non stiamo a ridirvi. Quindi, primo atto, andiamo avanti. Lui misura appunto il letto e come abbiamo capito, questo conte fa il lumacone, perché di base la storia è un po' questa, parliamoci un po' chiaro, no? Sì, perché com'è generoso questo conte che ci ha dato... Susanna è una bella ragazza e Susanna sostiene che questa generosità non è disinteressata, che insomma Susanna era sveglia, dice, il conte vuole rivendicare lo ius prime noctis. Che aveva gli stesso abolito che prima. Poi, scusami, ma anche per il conte valeva? Cioè non era solo per il re? No, per i nobili. Lo, il conte nobili rimesso, in generale. Le brame del conte sono peraltro favorite da Don Basilio, maestro di musica. Secondo me c'è qualche riferimento, Mozart si voleva levare qualche sassolino alla scalpa. Figaro si arrabbia e medita vendetta. Anche là non più giovane Marcellina, è intenzionata a mandare all'aria i progetti di matrimonio di Figaro e sostiene, con l'aiuto di Don Bartolo, il proprio diritto a sposare Figaro in virtù di un prestito, senti lì, concessogli in passato e mai restituito. Quindi sto matrimonio non sa da fare. E comunque anche qui c'è molto spesso, appunto, i nobili diciamo appaiono subito, Mozart la raffigura subito come delle persone laide, orribili, grette, sì, che cercano, sì, di comprarsi, esatto, in vario modo di esercitare il potere sui servi, certo, sugli schiavi che loro. Però qui, insomma, se gli fanno vedere la loro, come vedremo, riescono un po', insomma, a cavarsela. Don Bartolo del resto gode all'idea di potersi vendicare dell'ex barbiere di Siviglia, Figaro appunto, che aveva favorito il conte a sottrargli Rosina, l'attuale contessa d'Almaviva. Entra poi Cherubino per chiedere a Susanna di intercedere in suo favore presso la contessa. Il giorno prima il conte, trovandolo solo con Barbarina, si era insospettito e lo aveva cacciato dal palazzo, perché Cherubino è il personaggio dell'adolescente in piena crisi ormonale, insomma, quello vedremo, c'ha la sua aria bellissima di cui vi ho parlato largamente nella puntata di Pimpava a Londra. Per cui, ecco, insomma, qui le pulsioni le fanno un po' da padrone, insomma, qui ognuno cerca di seguire il suo sentire, il suo desiderio, che spesso si manifesta come desiderio di possesso, di possedere proprio fisicamente, no? La persona, come diceva Mari, soprattutto il sottoposto, il servo. Sì, perché poi se alla fine questo possesso non viene ricambiato, cioè se non è ben voluto anche dall'altra parte, te lo cerchi di comprare o di obbligarlo, esatto, in qualche maniera. Quindi, insomma, è roba scottante. È vecchia come il mondo, direi. Come il mondo, direi, molto più vecchia di Mozart. E, l'aria che andiamo a sentire è proprio quella del Cherubino? Sì, è il Cherubino, sì, non so più cosa son, cosa faccio, sempre l'atto primo siamo. Sì, questa è proprio l'aria in cui si espleta quel discorso che vi dicevo prima, della musica che esprime un cambiamento, proprio un'emozione, un andare in su e in giù, un altalenare. Lui dice: sono di fuoco e poi sono di ghiaccio. No? E la musica esprime proprio questo, cioè la partitura esiste, c'era, e l'ho vista, la partitura originale autografa di Mozart, sono quasi svenuta, tipo sindrome di Stendhal, ma vabbè, lasciamo perdere, alla mostra c'era proprio la partitura, l'avevano messa a questa pagina per far capire come le note espletassero proprio la funzione di spiegazione, anche se tu non avessi sentito, no, le parole del Cherubino, avresti percepito questa emozione altalenante, no, di questo giovane in preda, appunto, vede le donne, Dio, prima è tutto emozionato, però si blocca. È molto bella questa parte, è molto, insomma, a me piace molto, ecco. Sentitevela. Sforza d'amore, un desio, eccoci, eccoci. Bella, bella, bella. Non mi piaceva tanto la versione, cioè, vabbè, noi siamo un po' scegline, vabbè. Sì, no, la no, sto cherubino era lezioso. Era un po', ma vabbè. Sì, poi si acuti. Sì, era un po', un po' Puccini sembrava. Vabbè, se devi cantare Mozart come Puccini, per me può stare. Vai a fare Puccini. Però, polemica a parte, è molto bella quest'aria. Andiamo avanti. Che succede? L'arrivo improvviso del conte obbliga il cherubino a nascondersi ed assistere alle proposte galanti che il conte indirizza alla cameriera Susanna. Proposte, cioè, insomma, era un barcore. Che propostone. Cioè, proposte come se lei poteva dire di no, ma lei non poteva dire di no, quindi che proposta era? Molestie, si chiamano molestie sensuali sul luogo del lavoro, come dice Guzzanti. Erano proprio molestie sensuali sul luogo del lavoro. Ma anche il conte deve nascondersi al vedere avvicinarsi Don Basilio, che svela a Susanna le attenzioni rivolte dal paggio cherubino alla contessa. Cioè, qui siamo proprio al delirio completo. Sopraffatto dalla gelosia, il conte esce dal nascondiglio, perché poi il conte è pure geloso della contessa, cioè non è che era lì, era lì per molestare Susanna, ma quando sente dire che Don Basilio ci prova con la contessa, comunque non gli torna. Qui siamo proprio alla telenovela pesa, cioè qui ci siamo minona, lì e veramente. Siamo proprio al dominio, cioè, che si deve estendere su tutti i possedimenti. Conte, maledetto. Sopraffatto dalla gelosia, il conte esce dal nascondiglio e, una volta scoperto che anche il paggio era nascosto, va su tutte le furie. Entrano i contadini con Figaro, perché comunque Figaro si porta l'esercito, fondamentalmente è un po' tamarro Figaro, cioè si presenta lì con la banda, ringraziando il conte per aver eliminato il famigerato Ius Prime Nocti. Dice: ah, grande, l'ha eliminato Ius Prime Nocti il conte. Ma veramente, il conte, con un pretesto, rinvia il giorno delle nozze e ordina l'invio immediato di Cherubino a Siviglia, lo spedisce proprio, dove dovrà arruolarsi come ufficiale. Cioè, Cherubino gli va malissimo, veramente. Figaro si prende gioco del paggio con una delle arie più famose dell'opera: Non più andrai, farfallone amoroso. Allora, anche Figaro però, scusa tanto, cioè, ora, cioè, uniamo le forze contro il... Cioè, perché qui anche i servi ci fanno proprio grandissima figura, perché si fanno la lotta tra i poveri. Ma Mozart la sapeva lunga, cioè, perché non qui, è che c'è soltanto il dominante, c'è anche il dominato, perché se perché no... Perché qui è una lotta tra poveri, allora Figaro infama il cherubino, ma scusa tanto. Potere, cioè, se no mica si esercita un verso solo. Lo so. E quindi qui non più andrai farfallone amoroso, che ragazzi, questa sanno anche veramente i sassi, veramente. È vabbè, molto molto bellina, molto molto potevamo bellina. Potevamo anche non annunciarvela, sì, la riconoscevate. Vabbè, ma comunque, non più andrai farfallone amoroso, non più andrai narcisetto ad uncino d'amor. E qui. Ce la sa tutta comunque la Virgine a memoria. Come i vecchi. Come mio nonno, sì. Si capisci, Che tristezza. Vabbè. No, sono cose belle, no, c'è chi sta a memoria, cioè, Gali, voglio dire. Esatto, cioè, alla fine. Vabbè, sentitevi. So anche i Colle del Fomento, non è che non li so. Forse era meglio fermarci lì prima. A Mozart. Bene. Bene, avanti. Non più andrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle trovando il riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Delle belle trovando il riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, e quella chioma, quell'aria brillante, e quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante, e non più andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, belle belle trovando il riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Belle belle trovando il riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Ma perché ripo far bacco? Rambo stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, spada al fianco, taglio dritto, muso franco, un gran casco, un gran contante, poco contante, poco contante. Ed invece delle fandango, una marcia per il campo, per montagne e per valloni, con le nevi solleoni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che ne palle in tutti i tuoni, all'orecchio fa fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non piangrai in farfallone amoroso, notte giorno d'interno girando, nelle belle trovando riposo, il narcisetto ad uncino d'amor, nelle belle trovando riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Invece era bella, dai. Questa sì, era fatta bene, era molto bella. Vabbè, celeberrima, l'avrete riconosciuta in mille versioni, in mille film, in mille citazioni, insomma, ecco. Finisce il primo atto. Finito il primo atto. Secondo atto. Allora, nelle ampie camere della contessa, Susanna decide di rivelarle le attenzioni che ha ricevuto dal conte. Entra Figaro ed espone il suo piano di battaglia. Comunque Figaro ormai è bellicoso. Ha fatto pervenire al conte un biglietto anonimo dove si afferma che la contessa ha dato un appuntamento ad un ammiratore per quella sera. Allora qui si inizia con le trame incasinate. Ve lo dico, attenzione, prendete appunti. Attenti per favore, non vi distraete. Tanto ormai il caffè l'avete preso, siete svegli. Quindi allora biglietto anonimo, la contessa ha dato un appuntamento a un ammiratore. Finto, sì, per non fare, si sa non chi. Si sa chi, boh, l'avrebbe dato. E il conte lo deve venire a sapere. Questo biglietto anonimo, appunto, quindi suggerisce, quindi Figaro poi suggerisce a Susanna di fingere di accettare un incontro col conte. Quindi il conte viene a sapere che la moglie ha un incontro segreto e in più che Susanna lo vuole pure vedere. Cherubino, che ancora non l'hanno fatto partire per le armi, andrà al posto di lei vestito da donna e qui si apre un capitolone che è qui, se vogliamo. Vabbè. È così. E non l'apriremo. Ma Mozart era puro, ragazzi, non aveva niente di quello che pensate in testa. No, infatti. E quindi il cherubino andrà al posto di Susanna vestito da donna e la contessa smaschererà il marito cogliendolo in fallo, oltretutto con un uomo, con un ragazzino, perché se il marito non lo sa. E poi il marito non lo sa, vabbè. Qui veramente il queer avanti, veramente. Quindi ascoltiamo adesso Porgi Amor qualche ristoro, che è la... Non ridete. Vi sento. È l'aria della contessa, atto secondo, appunto da questo atto che in parte vi ho già letto, vi ho già raccontato. Sentiamo questa bellissima aria e finalmente una voce femminile, nel senso che il cherubino non lo era in realtà, quindi... Ed è quella della contessa, che ha anche le aree più belle, fondamentalmente, la contessa. E questa è una, insomma, delle sue. Thank you. bella, questa era, ci siamo un attimo diventati seri. Molto cioè. Bella, sì, le aree della contessa sono molto profonde, perché lei è il personaggio un po' più tormentato, no? Quella, la donna matura, che comunque appunto il marito è così, e insomma, solidarietà tutta la vita, già me la collo. Nonostante sia nobile. No, però la contessa, che non partiva nobile la contessa, era Rosina all'inizio, la contessa diventa nobile, la contessa non era nobile all'inizio. Tuttavia, mentre il travestimento del paggio Cherubino è ancora in corso, il conte sopraggiunge, sospettito dai rumori provenienti dalla stanza attigua dove la contessa ha rinchiuso Cherubino per vestirlo da donna. Porino, comunque lui è una sfiga. Sì, probabilmente anche un po' obbligato. Decide di forzare la porta, ma Cherubino riesce a fuggire saltando dalla finestra e Susanna ne prende il posto. Attenzione, quindi adesso Susanna è un uomo che si veste da donna. Change. Cioè, a qualcuno piace caldo, gli fa proprio una pippa. Change. Una pippa a questi, cioè triplo salto mortale. Quando dal guardaroba esce Susanna invece di Cherubino, il conte è costretto a chiedere perdono alla moglie, perché comunque si è incartato, nel senso, Entra Figaro, che spera di poter finalmente affrettare la cerimonia nuziale. Così, ci ha detto, io nel casino, comunque nel caso, sposiamoci, cioè, nel dubbio, sposiamo. Irrompe però il giardiniere Antonio, che afferma di aver visto qualcuno saltare dalla finestra della camera della contessa. Ora scusate, giardiniere Antonio, no, ma si poteva fare un po'. Cioè, solo a me viene in mente il giardiniere sardo, che certo. Poi in realtà non è sardo, dei Simpson. Chiaro. Solo a me. Sì, sì, certo. Willy. Sì, ce lo vedo. Scozzese in realtà. Aio! Bene, Figaro cerca di parare il colpo, sostenendo di essere stato lui a saltare. Ma ecco arrivare Don Bartolo, con Don Bartolo anche Marcellina, che reclama i suoi diritti, possiede ormai tutti i documenti necessari per costringere Figaro a sposarla. Cioè qui è il delirio, questo Miss Chef, no? Come si dice, questo senso del caos, cioè questo delirio completo in cui ognuno cerca di riparare ai danni che ha fatto cercando di, no, di fregarsi l'un l'altro, e siamo al delirio. Quindi un'altra aria del Cherubino, le nozze di Figaro. Voi che sapete che cos'è amor? Atto secondo. Sì, infatti avevo sbagliato e vi stavo facendo sentire un'altra aria. Va bene, ma me ne sono accorta in tempo. Meno male, se no dico una cosa con un'altra, vabbè. Oi. Ecco. Eccola qua, eccola, è questa. Thank you. Veniamo al terzo atto, giusto? Credo di sì. Sì. Mentre il conte si trova nella sua stanza, pensieroso, che non vorrei capire, insomma, ci vado a pensare a sto punto. Beh. La contessa spinge Susanna a concedere un appuntamento galante al conte, il quale però, cioè, cercando di fargli le trappole a questo, trappoloni a diritto, cioè, ancora non c'è ancora mai caduto. Non so, sto conte non è proprio scemo, comunque. Il quale però si accorge dell'inganno e promette di vendicarsi. Il giudice Don Curzio, così apparso, entra con le parti contendenti. Non poteva che non esserci anche un giudice. Cioè, entra con le parti contendenti, cioè la storia tra Figaro e Marcellina, che Marcellina si voleva comprare Figaro per i debiti, no? Entra con le parti contendenti e dispone che Figaro debba restituire il suo debito o sposare Marcellina. E qui so cazzi. È tipo forum. Ma da un segno che Figaro porta sul braccio, e qui ragazzi, viene fuori il patatrac. Si scopre che Figaro è il frutto di una vecchia relazione tra Marcellina e Don Bartolo. No, aspetta, quindi Marcellina era parecchio più vecchia di sì, Figaro. Ma questo era già all'inizio, era così. Signorina, lei si è persa. Cioè, è la sua mamma, quindi. È sua mamma. No. E la famosa aria che poi ascolteremo lo svela. Quella, appunto, riconosci questo amplesso. Cioè, però anche lei è un po' perversa. Cioè. Ma non lo sapeva. Non lo sapeva. Non sapeva di essere madre, lo riconosce. No, evidentemente no. Quindi Figaro è figlia di Marcellino, è figlio di Marcellina e Don Bartolo. Beh, si è risolto almeno, c'è il tabù. E intanto non se lo può comprare. Marcellini è lietissima di aver trovato il figlio. Ma come? Se lo voleva così concupire e invece ha scoperto che c'è un figlio. Vabbè, che bella la maternità. E invece di un toy boy un figlio. Ma poi non ho capito, questa se l'era scordata, aveva avuto un figlio 20 anni prima. Appunto. Ah, dicevo, io l'avevo avuto, poi boh, vabbè. Ma alla fine vabbè, uguale. Vabbè, moderno, basta sia mio. Ma in quel mentre sopraggiunge Susanna con la somma necessaria a riscattare Figaro. Dove l'ha trovato questi soldi, Susanna? Ma in quel mentre, appunto, sopraggiunge Susanna con la somma necessaria a riscattare Figaro, liberandolo dall'obbligo di sposare Marcellina. Però a quel punto che se ne fa di sti soldi? Un attimo, perché Susanna li vede abbracciati a Figaro e Marcellina e si incazza. Poi, compresa la situazione, diciamo, si unisce alla gioia di Figaro e dei due più anziani amanti. A quel punto Marcellina e Don Bartolo, gli amanti anziani, Susanna e Figaro riuniti. E ci siamo, ragazzi. Difficile, però. È un po' difficile. Marcellina acconsente alla tardiva proposta di matrimonio dello stesso Don Bartolo, perché a quel punto anche Don Bartolo ha detto: vabbè, il figlio c'è, ma sposiamoci, che si fa? E condanna il debito come regalo a Figaro per le nozze con Susanna, glielo abbona. Dice: vabbè, tanto ormai sposo tua madre. Don Bartolo porge un'ulteriore somma di denaro come regalo per il matrimonio. Non ce la potevi da prima, Don Bartolo. Scusa. Il conte invece monta su tutte le furie, ma vedremo come va, perché adesso ascoltiamo la famosissimissima aria a sei voci, che sono il momento in cui si scopre appunto che Marcellina è la madre di Figaro. Riconosci in questo amplesso, quindi sestetto, atto terzo. Un suo vivo, libera, Eccoci qua. Benissimo. Dove sono finiti i bei momenti? Che sembra un po'... Beh ragazzi, questo era bello, era bello. Il nostro, il prossimo brano appunto parla di dove sono finiti i bei momenti. Esatto. Dove sono i bei momenti? Perché quello che abbiamo appena sentito invece era il famoso sestetto, che ci ha portato alla conclusione dell'atto 3. No, c'è ancora una. Aspetta, c'è un pezzo dell'atto 3. Io mi ero confusa. Questo era a metà dell'atto 3. Allora, questo abbiamo già detto, è importante per il senso del caos controllato, tutte queste voci insieme, no? Molto bello, molto come virtuosismi, proprio una ricamatura, che però non è mai tronfia, non è mai come sarà un po' nell'opera italiana, no? Non è mai tutti i grandi geni non si prendono mai sul serio, no? È l'essenza dell'essere grande genio, cioè si scherza su se stessi, sulla propria arte, si scherza in senso, no? Si fa in maniera leggera, si fa come se fosse facile, e facile non è, perché questo è un lavoro magistrale, che però sentirlo sembra facile, e questa è la grandezza, secondo me, di Mozart, no? La semplicità, no? È un lavoro pazzesco, mostrato, però come se fosse all'udito, sembra molto semplice, sembra molto chiaro, e non lo è per niente, cioè è veramente una roba pazzesca, ma che non mostra mai la sua, no? Non è mai presuntuosa, non è mai no? preponderante, non è mai appunto come sarà un po' invece dopo, no? Nell'opera italiana, molto tonfia. E molto... poi non è neanche una complessità costruita come invece questo è più nel barocco, sì, cioè, dove si lavora molto al dettaglio, alla singola. No, questo è proprio tipico del neoclassicismo, cioè tipico di un'epoca che proprio tendeva a ridurre all'osso, ma in realtà era proprio quella la cosa difficile, è sempre difficile, è più difficile ridurre che mettere, questo si sa, è sempre così. La sintesi. La sintesi. Dono che io, come ben sapete, assolutamente non ho, ma meno male che la Mari c'ha pazienza, quindi andrò avanti dicendo che la contessa, intanto determinata a riconquistare il marito, detta a Susanna un bigliettino. Questi biglietti, ragazzi, qui ci hanno fatto veramente i numeri, sigillato da una spilla per l'appuntamento notturno, da far avere il conte, ragazzi, infatti, modificando il piano di Figaro ed agendo a sua insaputa, le due donne decidono che sarà la stessa contessa e non Cherubino ad incontrare il conte al posto di Susanna, e quegli intrighi si infittiscono. Quindi ci siamo, no? Cioè, questa volta è la contessa che incontrerà il conte sotto mentite spoglie al posto di Susanna, cioè il conte pensa di incontrare Susanna. Mentre alcune giovani contadine recano ghirlande per la contessa, Susanna, che le contadine comunque così ci dovevano infilare il terzo stato, cioè non è che adesso possiamo... Vabbè, perché Mozart comunque le conosceva tutte, quelle, le figuranti, e quindi... Sì, Mozart conosceva bene diverse donne, ma insomma vabbè. Recano ghirlande per la contessa, Susanna consegna il biglietto galante al conte, che si punge il dito con la spilla del biglietto, attenzione. Oddio. Figaro è divertito, non ha visto infatti chi ha dato il biglietto al conte, perché se vedeva era Susanna, non lo so. L'atto si conclude col festeggiamento di ben due coppie di sposi, oltre a Susanna e Figaro, anche, come abbiamo detto, la madre, a questo punto il padre di Figaro, Marcellina e Don Bartolo. E qui ci ascoltiamo dove sono i bei momenti, esatto. L'aria, un'altra aria della contessa, atto terzo. I miei tempi passati. Ah. Thank you. questo era appunto i bei tempi andati, dove sono i bei momenti della contessa. Dove sono i bei momenti, ah, cara contessa, t'ho nel cuore veramente. Sapesse. Veramente, ti capisco. Siamo quasi alla fine. Persone perché... che si ritrovano in personaggi dell'opera lirica del 1786, signori e signori. Abbiamo dei problemi. Comunque, siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine. Non abbiate paura, perché per punire. Allora, qui siamo a. Scusate. Quarto atto. Quarto inizio atto. Del quarto sì, atto. Sì, sì, sì. Allora. Dove è ormai tutto già notte, avete ormai. Capito, si sta avvolgendo abbastanza al meglio. Sì, gli intrighi diciamo, più complicati. Dai, questo conte si sono sciolti. Nel mezzo. Il Figaro e lei si sono sposati. La mamma e il babbo di lui si sono sposati. Però c'era ancora. Eravamo rimasti con un ultimo inghippo, che era quello dell'incontro tra il conte esatto. La contessa travestita. Esatto, è ormai notte e nell'oscurità del parco del castello Barbarina sta cercando la spilla che il conte le ha detto di restituire a Susanna, la spilla del biglietto con cui si era punto e che la fanciulla ha perduto. Figaro capisce che il biglietto ricevuto dal conte gli era stato consegnato dalla sua promessa sposa e, credendo ad una nuova trama, si nasconde con un piccolo gruppo. Oh, sto figa non si fida comunque, questa qua era Susanna, Madonna. Ma che deve fare, veramente, però, vabbè. Che palle. Ah, Susanna, vabbè. E Figaro capisce che il biglietto ricevuto dal conte, appunto, gli era stato consegnato dalla sua promessa sposa e, credendo ad una nuova trama, si nasconde con un piccolo gruppo di persone da usare come testimoni del tradimento di Susanna. Malfidato Figaro, però, Mamma mia. Mamma mia, Figaro. Vabbè, comunque io fossi Susanna, un po' me la piglierei comunque. Ma Andrea il conte. No, vabbè, infatti, il dolore, senti. Vabbè, diciamo. Sai che. Sai che. E, se ci devo passare a traditrice, ah, scusa. Mi diverto, se no. Da pronuncia spada. Allora, testimone del tradimento di Susanna. Che giustamente che un po' si arrabbia perché dice all'ascoltare sì, però... di Figaro sulla sua fedeltà. Ma che fai, mi metti a me in discussione? Si sente offesa dalla mancanza di fiducia di Figaro e decide di farlo stare sulle spine. E ci sta, grande. E Mozart gli tira una bordata. E Mozart gli tira le bordate perché l'aria che ci andiamo a ascoltare dall'atto quarto è tutto è disposto. Aprite un po' quegli occhi. Tutto è disposto. Ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente ed essa non è alcun buia la notte ed io comincio mai a fare il scimunito mestiere di marito ingrato nel momento della mia cerimonia e godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me senza saperlo. Oh, Susanna, Susanna, quanta pena mi costi con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti. Chi creduto l'avria a fidarsi a donna, a donna, a ognor follia. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate cosa son, guardate, guardate cosa son. Queste chiamate deve dagli ingannati sensi, a cui tribute i sensi, la devo aver ragion, la devo aver ragion. Streghe Sirene che incantano per farci penar, sirene che incantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi pezzose, son corse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono, mentono amore, non sento, non sento pietà, non sento pietà. Questo non lo dico, e già ognuno lo sa. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico, sirene che cantano, il resto non lo dico, civette che allettano, il resto non lo dico, comete che brillano, il resto non lo dico, son rose spinose, son volpi pezzose, son rose benigne, colombe maligne, maestre di canni, amiche d'affanni che fingono, mentono amore, non sento, non sento un pietà, non sento un pietà, no, no, no, no. Il resto non lo dico, già ognuno lo sa. Il resto non lo dico, e già ognuno lo sa. Già ognuno lo sa. Già ognuno lo sa. Già ognuno lo sa. Tutto è disposto. Tutto è disposto. Aprite un po' quegli occhi, perché io non lo so di cosa si sta parlando qui, ma me lo posso immaginare. Allora, entra allora Cherubino e, vista Susanna, che in realtà è la contessa travestita, decise di importunare. Si sono vestiti, raga. Vabbè, dai. No, perché Cherubino ha detto, ho capito, a questo punto cioè, tutti fanno quello che gli pare, allora io sono l'unico, allora ci si butta anche lui. Nello stesso momento giunge il conte, il quale, dopo aver scacciato il paggio, eppurino non becca mai niente, inizia a corteggiare quella che crede essere la sua amante, che in realtà, come sappiamo, è la contessa. Fingendo di vedere arrivare qualcuno, la contessa, travestita da Susanna, fugge nel bosco, mentre il conte va a vedere cosa succede. Nel contempo Figaro, che stava spiando gli amanti, rimane solo e viene raggiunto da Susanna, travestita da contessa. I due si mettono a parlare, ma Susanna, durante la conversazione, dimentica di falsare la propria voce e Figaro la riconosce. Che poi, voglio dire, come avrà fatto a falsare la propria voce? Vede, la contessa magari parlava, non lo so, veneto. Sì, chissà, un accento no, di fuori perché, Vienna, non lo so. Perché non è che... Vabbè. Quindi, insomma, e quindi, niente, si scopre tutto. E a questo punto ci ascoltiamo la penultima aria di quest'oggi, che è Dai, vieni, non tardar, cantata da Susanna a questo punto. Giunse al fine momento che godrò senza affanno il braccio all'idol mio. Timidi cuori uscite dal mio petto a turbar non venite il mio utile letto. Allora, siamo arrivati alla fine e prima del finale. Tutto è disposto. L'abbiamo già sentita prima. Ciao. Oggi proprio. No, oggi niente. A tutti contenti al finale, perché giusto, cioè proprio deve essere didascalico, giusto per non lasciare per non niente al caso. Per non confondersi. Quindi sì, prima del finale diciamo due o tre cosette. Se ti è resuscitato forse il telefono. Sì, perché io sono, sapete, ho gli appunti e sono cieca, no? Quindi non posso leggere da dove legge la Maria al computer, ma devo leggere dal telefono come le vecchie. E sì, allora volevo dire che mi sembrava interessante una cosa che avevo trovato, una lettura. Aspetta, prima che te, sì, che te leggi, ritrovi la lettura, nel frattempo leggo l'ultimo pezzettino di trama, sì, così certo, arriviamo in fondo. Il dente, sì. Che è per punire la sua promessa sposa, questi non le comunica la cosa, ma rende le proprie avance alla contessa molto esplicite. Cioè, non avete Figaro per punire la sua promessa sposa? Sì. Stiamo parlando di Figaro, sì, perché esatto, non si fidava di Susanna. Cioè, Susanna a un certo punto non falsa, cioè si dimentica di falsare la propria voce. Figaro la riconosce e capisce che lei sta facendo il truschino. Per punirla, questi non le comunica la cosa, ma le rende le proprie avance molto più esplicite, cioè fa finta di starci con la contessa bestia. In un turbinio di colpi di scena, alla fine Figaro chiede scusa a Giovanna per aver dubitato della sua fedeltà, mentre il conte, arrivato per la seconda volta, scorge Figaro corteggiare quella che crede essere sua moglie e interviene a questo punto la vera contessa, che dice: "Oh, ma avete rotto coglione, state facendo un gran casino." Chiarisce l'inganno, il conte è allibito, tutti rimangono molto basiti F5. E allora il conte implora con sincerità il perdono della contessa e le nozze tra Figaro e Susanna si possono finalmente celebrare. La folle giornata si chiude così in modo festoso con l'aria conclusiva a tutti contenti. bam, sì, fine. Sono d'accordo. sì, perfetto. A tutti contenti. Atto quarto, quindi. Sì, finale. Siamo alla fine. Bene. Quindi questo era interessante, i ruoli vocali. Diciamo che nelle nozze di Figaro si abbandona la convenzione settecentesca di quello che veniva appunto definito lo stile vocale italiano, che era caratterizzato da tessiture molto acute e da un pronunciato virtuosismo. Si abbandona a favore di nuove sfaccettature, sia liriche che drammatiche. Dunque, diciamo, si riorganizza l'ordinaria costellazione dei personaggi dell'opera buffa, associando a vari caratteri determinate tinte sociali e dando vita a nuovi tipi socio-psicologici, qui si sono un po' lanciati, che si sarebbero poi instaurati nella futura visione dell'operistica europea. Quindi, come vi dicevo, questa opera è proprio un cardine, proprio un momento di passaggio, no? Tra quello che era venuto prima e quello che sarà dopo. Sul frontespizio del libretto si legge soltanto tre tipi vocali, basso, soprano e tenore, corrispondenti al triangolo tradizionale dell'opera buffa. Mancano i termini baritono e mezzo soprano, semplicemente perché all'epoca non esistevano. Eh sì, è stato dopo. Esatto. Considerando la partitura e la tessitura vocale ricavabile da essa, riusciamo a cogliere e a comprendere le sfumature indicate dal compositore e la scelta moderna dei ruoli vocali. Figaro basso è in realtà un basso baritono, visto il timbro più brillante e chiaro. Conte è un basso con una tessitura più acuta, che nell'Ottocento prenderà senz'altro il nome di baritono. Antoni e Bartolo, interpretati nella prima rappresentazione dallo stesso cantante, Francesco Bussani, sono entrambi due bassi buffi. Mozart affida la dicitura di soprano a tutte le donne dell'opera, le chiama tutte soprano, differenziandone minuziosamente il carattere. Susanna è un soprano lirico che si avvicina al soprano di mezzo carattere. Contessa è un soprano lirico tendente al drammatico, no? Abbiamo sentito che le opere della Contessa, le sue arie sono sempre più drammatiche. Poi appunto Barbarina è un soprano leggero, Marcellina è il mezzo soprano ed antagonista, Cherubino è un mezzo soprano, ma abbiamo già detto la storia di Cherubino. La parte più sacrificata è quella del tenore, lasciata a Don Curzio e Basilio. Secondo la critica del Chronic von Berlin del 1790, vabbè, ciò doveva essere senz'altro dipeso dalla mancanza di tenori di spessore nel cast a vantaggio di voci gravi. Cioè c'erano pochi tenori bravi e quindi, diciamo, ce n'ha infilati pochi. Sì, che è molto buffo, perché poi invece nei secoli questa cosa si è completamente invertita. Cioè, sono sì, più tenori ora. A bestia. Che baritoni. Sì. Vedi? E quindi, e no, più che altro di bassi, sì, baritoni sì, bassi. Ma di bassi, insomma. Ma perché l'opera italiana ha settato questo, Verdi, Puccini, ci cioè sono più ruoli da tenore? Un po' sì, ma in parte credo che sia anche una questione proprio vocale, anatomica. Nel senso ce ne pochi. Che in realtà c'è proprio pochi bassi. È più difficile. Bassi veri, sì, intendo ovviamente, perché poi cioè è chiaro che poi un baritono può fare esatto, certo, o almeno alcuni baritoni possono fare ruoli anche da basso, ma insomma non è proprio la stessa cosa, la tessitura è molto diversa, certo. E quindi, però effettivamente sapevo che rispetto ai secoli precedenti, almeno nel Novecento di bassi se ne incontrano pochi. Sì, oppure c'è anche pochi, meno studio, cioè magari c'è appunto c'è meno disposizione, poi lo studiano meno e c'è meno ruoli, no? Può darsi un po' tutto, non so, non lo so così bene. Con la ripresa viennese dell'opera nell'agosto del 1789, quindi era già passata la presa della Bastiglia, ragazzi, qui cioè parliamone, Mozart modificò la partitura variandone alcune parti nel ruolo di Susanna, avendo a disposizione una nuova interprete, questa Adriana Ferrarese, già interprete del Così fan tutte, e del ruolo di Fiordiligi del Così fan tutte, pertanto non da meno alla precedente Nancy Storace. Questa Nancy Storace era stata proprio la prima interprete di Susanna nella prima dell'opera viennese al Burgtheater. I cambi riguardano due arie: Venite, inginocchiatevi nell'atto secondo, De vieni non tardare, insomma vabbè, qui parla appunto delle sostituzioni. La versione viennese non è mai stata preferita alla tradizionale, le due arie sono in genere di solito eseguite come arie da concerto, spesso addirittura, anche se Mozart non le aveva affatto concepite come tali, ovviamente dopo negli anni sono state estrapolate e usate. Quindi si parla delle due arie che vi dicevo, venite, inginocchiatevi, e vieni non tardare, o gioia bella, che noi non l'abbiamo ascoltata, ma magari una volta. Leggevo anche che ci fu un altro grosso cambiamento, fu fatto dal Metropolitan New York Orchestra negli anni 60, da una soprano e da un direttore d'opera, che aggiunsero delle parti che le famose director's cut, cioè loro aggiunsero queste arie che invece non si facevano mai nella versione che aveva voluto Mozart, le ritirarono fuori, fu un grande scandalo, tuttora pietra, insomma, di discussione con il mondo. Vabbè, ma qui andiamo veramente nel nerdismo più estremo e ve lo vorrei risparmiare. Va bene, non però invece il finale, esatto. Giustamente, sì, che è molto bello. Vi aspetta, e quindi ci ascoltiamo il finale e ci diamo appuntamento. Allora, secondo me, ora qui van così in diretta, e ti dico che io non ci sono domenica prossima, e quindi chissà se riusciremo a registrare. Ma secondo me forse no. Forse la Mare e la Pimpa vanno in vacanza. Sì, e... ma per una buona causa, perché domenica prossima c'è Hack Meeting, all'incontro nazionale delle culture hacker a Genova, e quindi vi perdete almeno il 50% della dell'organico. Sì, dell'organico della fuga del gatto. E quindi secondo me ci diamo appuntamento tra due domeniche, ma insomma chissà. Vogliamo ricordare i social, che non lo facciamo giusto mai. Non l'abbiamo fatti, social Wombat, il sito essenzialmente wombat.noblogs.org e la casella di posta wombat@insiberia.net. E direi che è tutto. Direi che così fan tutte un'altra volta, lo facciamo, poi faremo, perché adesso sono partita, ragazzi. Ve le sparo tutte quelle di Mozart. Grazie per l'ascolto e alla prossima. Ciao ciao.